I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. She's going to be Secretary of State, and I operate globally, and I have people who contribute to these efforts globally. I think that it's important to make it totally transparent. Say who the donors are and let people know that there's no connection to the decisions made. Queste sono le parole con cui Bill Clinton ha spiegato all'intervistatrice che gli stava ponendo qualche domanda attorno alla questione della trasparenza, no? La trasparenza richiesta alla sua fondazione, la potente e ricca fondazione Clinton, relativamente ai finanziamenti ricevuti negli ultimi anni da governi stranieri, da governi in certi casi non perfettamente o per niente in sintonia con quello americano, da uomini politici spesso di paesi e di realtà lontane che avevano versato cospicue somme di denaro alla Fondazione Clinton. Tutto adesso andrà rivelato in questa indagine che sottoporrà l'attività della Fondazione a uno scrutinio approfondito, in modo da dimostrare che non esistono incompatibilità con la nomina di Hillary Clinton al Segretariato di Stato e che Hillary potrà prendere posto nella sua prestigiosa posizione e che Hillary già, e che Bill già cosa farà. Questa poi in fondo era la domanda sottesa a tutta l'intervista. Se uno guarda la home page di CNN, versione americana, in questo momento campeggia una bella foto di Bill e Hillary, ormai signori di una certa età, lui con quei capelli candidi, lei insomma ancora con un po' di rughe, no? Da prodotto magari questo straordinario sforzo prodotto in questo 2008 elettorale, ma che poi alla fine, dopo la sconfitta, dopo la delusione, si è concluso comunque assai onorevolmente con questa formidabile qualifica che gli è stata offerta e attribuita dal presidente eletto Barack Obama. Ebbene, stanno sotto braccio, guardano dalla stessa parte, sembrano maledettamente, se mi passate l'espressione, una vecchia solidissima coppia. Motivo per cui esce un articolo a corredo di tutto ciò con un titolo esplicito che è poi la risposta alla domanda che tutti i giornali americani questa mattina si pongono, e la risposta è la seguente da parte di Bill Clinton: starò fuori dalle scatole, in sostanza. Non abbiate paura, io in un certo senso, perché poi non è che Bill si neghi niente, no? Insomma, è uno che con il narcisismo ha avuto sempre un rapporto piuttosto ravvicinato, ma insomma, io, dice Bill, ho fatto di tutto per aiutare e formare la preparazione politica di Hillary, le ho sempre parlato di ogni cosa, di ogni questione stessi affrontando, ho sempre considerato di valore inestimabile i consigli che lei mi dava, sono sicuro che si sta preparando con la sua consueta serietà alla straordinaria sfida che la sua nuova posizione le propone. Sono certo che la decisione del presidente eletto Obama sia una decisione felice, e sono sicuro che lei, accettando, ha fatto la cosa giusta, ha scelto nel modo migliore, anche se per lei non è stata facile, perché adorava, queste sono le parole di Bill Clinton, she adored being in the Senate, adorava stare al Senato, lavorare come senatrice dello Stato di New York, e state pur certi che non mi verrà mai chiesto di fare nulla di specifico, e io non cercherò in alcun modo di stare nei dintorni, no? Di ronzare attorno a quella Casa Bianca, dove insomma fino a poco tempo fa nei disegni, nei prospetti che si preparavano per la nuova presidenza, quando magari Obama ancora non era eletto o non appena è stato eletto, c'era, no? questo convitato di pietra dai capelli bianchi, dal fisico massiccio e dai due mandati da presidente all'attivo. Altre notizie fresche. La prima è che Saxby Chambliss, il candidato senatoriale repubblicano, ha vinto, e ha vinto nettamente. Si diceva a valanga quando correvano i primi giorni di novembre da queste parti il seggio per lo stato della Georgia. Così facendo ha spazzato via le residue speranze dei democratici di conquistare quel numero non solo magico, quel numero quasi sacro, no? Di 60 seggi senatoriali su 100 che permette a Washington, al Senato di Washington, di bloccare, di rimuovere eventuali azioni di ostruzionismo da parte della minoranza, filibusters, dice. Insomma, in sostanza a questo punto resta un equilibrio tutto sommato raccomandabile. Chambliss ha vinto, ripeto, in modo netto, oltre il 60% delle preferenze contro il 40% di Martin, e i democratici dovranno governare con il pericolo dell'ostruzionismo da parte dell'opposizione. Del resto i voti a disposizione dei democratici fin qui sono 56, poi ci sono i due senatori indipendenti e poi c'erano questi due voti che ballavano, quello della Georgia appena perso dal candidato democratico Jim Martin e poi quello del Minnesota che sembra anch'esso destinato a essere perso perché l'ex giornalista satirico convertito alla politica Al Franken, nonostante i miliardi che ci ha buttato dentro, i milioni che ci ha buttato dentro anche di tasca propria per aggiudicarsi un posto a Washington, e le grane che sta ponendo all'intero sistema elettorale americano chiedendo riconteggi su riconteggi, alla fine sembra proprio che si dovrà rassegnare, dovrà perdere questo seggio, quindi alla fine resteranno i 56 e l'opposizione repubblicana, per quanto di minoranza, avrà il suo bel da fare quando lo riterrà necessario, avrà tutte le opportunità di opporre il proprio ostruzionismo. Terza notizia o considerazione importante della giornata per quello che riguarda gli scenari della transizione. Più tardi approfondiremo invece un versante strategico legato maggiormente alle questioni di politica estera, ovvero al significato così un po' più approfondito della conferma di Gates come segretario della difesa e quali siano le assonanze o i pericoli di dissonanza tra la posizione di Obama e quella di Gates. Ma invece oggi è il giorno di un altro notabile esponente democratico, per la fattispecie il governatore del New Mexico Bill Richardson, a lungo in corsa lui stesso come candidato presidenziale, sebbene sempre con scarse o nulle possibilità, molto vicino a lungo alla sfera di Hillary Clinton, poi protagonista di un voltafaccia piuttosto clamoroso che gli fece sposare e sponsorizzare la causa di Barack Obama, ed ecco che arriva la prevista ricompensa. Barack Obama nomina Bill Richardson ministro del commercio, anche questo verrà comunicato in una conferenza stampa a Chicago, di cui già ci sono le anticipazioni su CNN. La conferenza stampa dovrebbe avvenire intorno alle 5:30. Vi ricordo che Richardson è un uomo di grande esperienza internazionale, prima di tutto è di origine ispanica, il che tra l'altro stende una mano, no, nei confronti di un elettorato che a lungo è stato sospettoso nei confronti di Barack Obama. Aveva aspirato anche al posto di segretario di Stato proprio per questa sua esperienza, conoscenza, attività di ambasciatore e rappresentante americano nel mondo. Aveva aspirato al posto di segretario di Stato, che invece è andato a Hillary Clinton, ma in un momento, tanto più in un momento critico come questo, anche il Ministero del Commercio è una posizione della quale Bill Richardson si può decisamente accontentare andando a sedere su quella poltrona. Infine ci sono delle anticipazioni per questa magica, già attesissima giornata del 20 gennaio. Prima di tutto c'è questo numero impressionante che prevede quanti potrebbero essere i partecipanti alla mattinata in cui Barack Obama diventerà a tutti gli effetti il presidente degli Stati Uniti d'America, sul Mall di Washington, no? quel grande vialone, diciamo così, con alberi e acqua al centro, e il sacrario di Abramo Lincoln da una parte, il Campidoglio dall'altra, e si prevedono 4 milioni di persone a presenziare, a testimoniare il giuramento da presidente di Obama, e delle misure di sicurezza, che dire eccezionali è poco. Non si potranno portare ad esempio zaini, pensate un po', niente zaini, non c'è americano che non vada in giro tutti i giorni, provate ad andare in metropolitana con uno zaino, dove finiranno gli zaini, dove metteranno la roba, non lo so, si devono organizzare quei sacchettini, vedranno loro, niente ombrelli, se piove pazienza, niente termos, si berrà dalle bottigliette d'acqua, no, perché nemmeno bottiglie d'acqua, quindi non si beve semplicemente. Si potranno portare cellulari e telecamere, ma anche su questo secondo me ci saranno sicuramente dei controlli. La zona sarà pattugliata da migliaia di uomini delle forze dell'ordine, aerei, elicotteri militari, aerei militari, come fanno a utilizzare gli aerei in questi casi? Comunque questo c'è scritto sulle agenzie americane, nella lista di oggetti vietati sul Mall, il parco che guida che guarda la scalinata del Campidoglio. Ci sono naturalmente, è inutile dirlo, armi da fuoco e coltelli, ma nemmeno i passeggini, perché contengono parti di metallo, e attaccare un presidente che sta per essere insediato a colpi di passeggino è quanto di più disdicevole si possa fare. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart. It makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. A proposito, per gli amanti del gossip avranno saputo, no, la questione del famoso anello, probabilmente di fabbricazione italiano, che Barack doveva regalare a Michelle. Prima di tutto pare ci sia una smentita, caro Emiliano. Non è italiano? Non è italiano. Non è italiano. E poi lui voleva ringraziarla, insomma, per l'aiuto durante la campagna elettorale. L'anello aveva un bel prezzo, 23.000 euro. Però il portavoce della transizione, che ha un suo personale portavoce, si chiama Dan Pfeiffer, ha categoricamente smentito l'indiscrezione pubblicata su diversi giornali. Non c'è niente di vero, ha detto Pfeiffer, quindi chissà se Michelle aveva letto l'indiscrezione, magari ci aveva fatto la bocca. E tanto più il gioielliere italiano di Valenza Po, che ha detto sì, effettivamente ho ricevuto un ordine dalla Casa Bianca, grande affare, niente. Ha cercato anche lui di approfittare della pubblicità. Prima pagina. No, ma prima di passare alle notizie importantissime, imperdibili dalla Cina, ho due curiosità. Dimmi. Il portavoce della transizione il 21 gennaio che fa? Va a casa? Transa anche lui. La seconda, visto che prima hai amenamente parlato di Richardson, tu l'hai anche conosciuto, no? Ah, come no, molto simpatico. Richardson è uno che in campagna elettorale, dopo le primarie, lo si trovava insieme a Kucinich. Sì. Erano due che battevano i fast food della zona. Quindi mangioni... Beh, sì, più budget limitato, un uomo simpatico, grande ammiratore di Berlusconi, che mi diceva sempre salutami Berlusconi, e io gli dicevo sempre presenterò, gli portavi saluti direttamente. Presenterò un uomo alla mano, amante delle barzellette, credo tuttora, una caratteristica molto latina, del resto poi è che c'ha sempre le mani in tasca, insomma, è uno che sta sempre con le mani in tasca, quelli che si è una perifrasi la tua, si stiracchiano sempre con le mani in tasca, tu lo guardi poi, comunque poi un uomo simpatico e poi con un fior fior di curriculum, perché ridi? No, così no, ho pensato a seguire adesso che è diventerà insomma tu ministro. Seguilo quando lo inquadro, quando la figura intera e studia e poi ne parliamo. Allora, veniamo alle notizie in salsa cinese, ritorniamo su un evergreen, un must qui di Jefferson Ing da diversi mesi a questa parte, cioè la melamina, perché addirittura arrivano notizie... Io ho i Guns N' Roses oggi. Ecco, quindi siamo sulla stessa linea d'onda. Dicevo, la melamina, addirittura arrivano notizie dall'Arabia Saudita che ci riportano in Cina, ormai è uno scandalo globale, perché pare sia stata trovata melamina nel latte in polvere Nesvita, della multinazionale svizzera Nestlé, che, virgolette, contiene alte concentrazioni dannose per la salute. La denuncia arriva dall'autorità saudita, quindi dall'Arabia Saudita, per gli alimenti e i farmaci, e a quanto pare questa confezione contaminata da melamina è stata prodotta il 6 maggio 2008, sono stati precisissimi i sauditi, in un impianto cinese della Nestlé. Dalla Nestlé non arrivano per ora nessuna notizia, né di smentita né di conferma. La ditta invece ha sempre assicurato che i suoi prodotti sono sicuri e tra l'altro in una dichiarazione del 23 ottobre scorso ha detto che compra il latte in via diretta dai produttori e lo esamina personalmente prima presso la fattoria e poi nella sua fabbrica, quindi insomma a quanto pare tutte le garanzie del caso sono fornite dalla Nestlé. È ovunque quindi la melamina, parliamoci chissà quante l'abbiamo bevuta anche noi da queste parti, boh. Vi dicevo Guns N' Roses, cari fan dei Guns N' Roses, qui l'affare si ingrossa, come si dice, perché i Guns N' Roses, alla riscossa, alla faccia del governo cinese col quale sembrano essere in cattivi rapporti per la pubblicazione del loro album, che vi ricordo si chiama The Chinese Democracy, la democrazia cinese, e i cinesi sono un po' offesi, non vogliono lezioni da parte di quattro capelloni. I Guns N' Roses stanno per fare causa alla Dr. Pepper, che sarebbe in Italia poco conosciuta, ma è una specie di versione un po' passé, un po' superata della Coca-Cola. È una Coca-Cola che in America è popolarissima. Io la associo al chinotto, ma forse no. Se vuoi, al chinotto. Ma insomma, questi da Dr. Pepper, durante l'anno scorso, non hanno avuto idea migliore che fare degli spot pubblicitari in cui dicevano: se Guns N' Roses, perché è una buttata, no? Se è un'esagerazione, se Guns N' Roses fanno un album entro l'anno, Dr. Pepper gratis per tutti. E quindi sono pronti. E adesso sono subissati da milioni di richieste di lattine gratis, non ultime dei Guns N' Roses stessi, che naturalmente poi, essendo gente poco spiritosa, adesso ha messo di mezzo gli avvocati. Però della Dr. Pepper ho dei ricordi anni 80, quando ero veramente piccolo, veramente ragazzino, che cominciava ad arrivare sugli scaffali dei nostri supermercati. C'era un qualcosina, poi credo che l'esperimento sia stato abortito molto presto. Perché non è un leggero sapore di ciliegia. E quindi effettivamente era una via di mezzo tra la Coca-Cola e il... Possiamo chiedere ai nostri ascoltatori se hanno ricordi anni 80, la loro esperienza di Dr. Pepper. Sentiamo. Allora, torniamo in Cina ed esattamente nel Guangdong, che è una regione naturalmente molto importante e sotto l'occhio, nell'occhio del ciclone in questo periodo, perché è la zona manifatturiera per eccellenza, il traino dell'economia cinese, che sta conoscendo un periodo davvero difficile con licenziamenti a catena. Si parla di milioni e milioni di posti di lavoro che sono a rischio, perché questa crescita cinese non è più così vorticosa, siamo sotto la soglia anche psicologica del 10%. Ebbene, a Shaowang, che è una città importante, grandissima del Guangdong, c'è stato una protesta di 500 operai sull'orlo del licenziamento sotto gli occhi di decine di poliziotti. I lavoratori hanno bloccato per ore la strada principale del centro della città, finché la direzione della società statale Shaoguan Smelter ha promesso di negoziare con i rappresentanti dei lavoratori, quindi forse potranno strappare un nuovo contratto di lavoro. Quindi la protesta in questo caso pare sia andata a buon fine. Intanto è in parte rientrato a Guangzhou, la vera metropoli del Guangdong, il maggior sciopero dei tassisti avvenuto in Cina ormai da decenni. Pensate che addirittura il 70% degli oltre 17.000 tassisti impegnati in città si sono fermati tutti di botto insieme il 1° dicembre scorso per una protesta appunto per le alte tasse e per gli scarsi controlli contro gli abusivi. Bene, adesso sentite un attimo questa voce. A 77 anni è morta Odetta, la voce, forse la voce più amata, soprattutto naturalmente dagli afroamericani, ma per quello che riguarda l'attivismo per i diritti civili. Pensate che Rosa Parks, no, la donna che cominciò la lotta alla segregazione in Alabama, una volta interrogata attorno alla musica che amava, rispose: tutte le canzoni cantate da Odetta. Odetta cantò alla marcia su Washington per i diritti civili nell'agosto del 63. La sua canzone Oh Freedom è considerato a tutti gli effetti l'inno di quel movimento. È morta a 77 anni appunto a Manhattan, all'Lenox Hill Hospital, dopo una lunga malattia. Passaggio di consegne. E allora, Robert Gates, segretario alla difesa confermato da Barack Obama, ha detto una cosa molto chiara appena ricevuto la comunicazione: non sarò un segretario notaio. Ha detto: è stato un onore e un piacere lavorare con Bush, ringrazio Obama per la sua fiducia in me, ma insomma il senso è: sono qua per la mia esperienza, sono qua per pensare, proporre e ascoltare ciò che il presidente ha da dirmi. Ha anche chiarito Gates il dubbio sulla sua affiliazione politica, no? Quanto è davvero repubblicano. Ha spiegato che in realtà non si è mai registrato al partito. Quando lavoravo alla CIA ho pensato che dovessi essere apolitico e quindi non mi sono mai registrato, ha raccontato, ma mi considero a tutti gli effetti un repubblicano. Parte quindi il progetto, sta per partire, è in rampa e lancio il progetto bipartisan di Barack Obama, almeno per quello che riguarda il Pentagono, e noi abbiamo chiamato un esperto, Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Tra l'altro ringraziamo della gentilezza, perché è all'estero e si è prestato comunque a fare due chiacchiere, una conversazione con noi. E ciò che vogliamo sapere in sostanza riguarda l'adesione di Robert Gates a questo progetto, a questa visione di un ritiro dal Iraq. Ha detto Gates: appoggio in pieno quello che sostiene il presidente eletto Obama, lasceremo le aree più popolate d'Iraq entro fine giugno 2009, che è dietro l'angolo. Vogliamo capire che cosa significa, che cosa presuppone, quali scenari medio orientali dobbiamo attenderci per l'insediamento di Barack Obama e per questa gestione del Pentagono nuovamente ad opera di Robert Gates. Silvestri, dica. Sì. Buongiorno. Io spero che si senta bene. Bene, un po' forte e chiaro. C'è un certo ottimismo per quello che riguarda l'Iraq, legato in particolare al fatto che la popolazione irachena sembra ormai collaborare sempre più apertamente sia con le forze del governo che con gli stessi americani, e quindi c'è una possibilità che effettivamente queste scadenze piuttosto ottimistiche, così come sembrano, possano essere rispettate. Parliamo naturalmente semplicemente di allontanare gli americani per il momento dalle operazioni più a contatto con la popolazione. Certo. E tenerli in una specie di ruolo di retroguardia e di intelligence soprattutto, e di controllo. Certo. Che potrebbe essere una soluzione efficace per cominciare ad avviare la partenza. Non è detto però che poi questo permetta effettivamente la partenza degli americani nelle date previste, perché una cosa è mantenerli indietro, però sempre sul posto, e un'altra è che proprio se ne vadano, cioè bisognerà vedere la situazione al momento. Però insomma, nel complesso, con la collaborazione del governo iracheno, è sempre ammesso che non scoppi una grana maggiore. Certo. Tra le varie famiglie della politica irachena, in particolare degli sciiti con i curdi e degli sciiti con i sunniti, se tutto questo continuerà a andare discretamente come ci siamo, potrebbe essere possibile. È quello su cui punta Obama, il quale vorrebbe invece concentrarsi di più su un altro paese niente affatto facile come l'Afghanistan. Lui parla apertamente di un rinforzo anche numericamente definito, si parla di 20-30 mila uomini in più. Lei, Silvestri, ritiene sia l'incremento di truppe, ma questa volta di provenienza Obama anziché Bush, anche nel caso dell'Afghanistan possa essere, come sembra sia stato in Iraq, la mossa giusta? Bisognerà vedere. Nel caso dell'Iraq la cosa ha funzionato perché c'era stato anche un cambiamento politico significativo. Nel caso dell'Afghanistan bisogna vedere se questo sarà un qualche cosa di utile e di significativo. C'è in questo momento in corso un viaggio del generale Petraeus, il nuovo comandante. Certo. Del comando centrale americano, che nuovo responsabile quindi per gli americani dell'Afghanistan, che è in Europa e sta facendo un giro di consultazioni con gli europei e chiedendo tra l'altro anche agli europei dei rinforzi. Certo. A mio avviso è venuto un po' troppo presto. Bisognerebbe prima cercare di capire che tipo di strategia si vuole applicare in Afghanistan, non soltanto militare ma anche politica, e poi vedere quanti uomini sono necessari. L'inizio immediatamente di un rinforzo potrebbe essere una specie di mossa propagandistica, se volete, ma non necessariamente efficace se contemporaneamente non c'è un mutamento politico. Silvestri, le faccio una terza e ultima domanda. Sul New York Times di oggi è uscito un editoriale anche piuttosto impressionante, anche per la passionalità con cui è scritto, dal famoso romanziere indiano Amitav Ghosh, che orchestra un lungo ragionamento attorno all'attacco a Mumbai. Si chiede se questa ossessione l'ossessione che pare pervada la stampa indiana di paragonare l'attacco a Mumbai all'11 settembre sia giusta fino in fondo anche lui sembra propendere a questa tesi, e se, le voglio sapere se condivide questa visione e se c'è, può esistere un coinvolgimento attivo degli Stati Uniti d'America anche su fronti di questo genere. Francamente il paragone tra l'11 settembre e quello che è avvenuto a Bombay io lo trovo un po' forzato, onestamente. Perché? Anche se è certamente, beh, perché l'India, in India ci sono stati in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni e mezzo, già 2000 morti per attacchi terroristici. Certo, non è certo. Che poi questa è qualche cosa che arriva come dal ciel sereno per l'India. Certo. E non sappiamo neanche quanti e se non ci fossero dei complici indiani in questa operazione, lo vedremo dopo. Adesso ci sono molte chiacchiere, certo. e molta propaganda in tutto, sì, quello che sentiamo in queste ore. Sì. Diciamo che la cosa è sicuramente seria, ma bisogna stare attenti a capire bene quali siano le conseguenze di questo attacco. A mio avviso questo attacco è certamente contro l'India, ma è almeno altrettanto contro il Pakistan, o almeno contro l'attuale governo pakistano. Certo. Questo, i terroristi che hanno fatto questo attacco stanno prendendo, diciamo, con una sola pietra due uccelli diversi. Certo, certo. E tra l'altro in questo senso ha parlato anche Condoleezza Rice in India, facendo un preciso, sì, appello alle autorità pakistane. La ringraziamo Silvestri, Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. E prima di passare la linea alla musica, al traffico, volevo un attimo insomma aggiornarvi, perché qui come al solito di tanto in tanto ci si imbatte, ci si incaglia in dei casi di cultura popolare. In questo caso il caso si chiama Dottor Pepper. Qui c'è poco da scherzare. Non sapevamo di eccitare un po' la vostra memoria, ma devo dire anche la vostra rabbia, perché raramente mi era capitato di imbattermi in un prodotto così flagrantemente impopolare. Cioè, io non capisco, c'è un fatto personale tra gli italiani e il Dottor Pepper, ma io vi stavo raccontando, per chi non lo sapesse, il Dottor Pepper trattasi di lattina di colore rosso scuro contenente una specie di Coca-Cola dal sapore, secondo me, di ciliegia. Qualcuno condivide, altri suggeriscono altro, tipo cannella o quant'altro, ma del resto di Dottor Pepper ne esistono tante. Io peraltro poi avevo intrapreso l'argomento con un certo entusiasmo, perché vi confesso che a me la Dr. Pepper piace. Non l'avessi mai detto, insomma, leggo messaggi così a casaccio. È provata per curiosità questa estate, disgustosa, viva la spuma nera. Questo è un nazionalista sicuramente di provincia, poi la spuma nera. Poi ricordo che Forrest Gump faceva sbuffi, ma causa troppa Dr. Pepper, dice Carlo da Firenze. Umbe definisce la Dr. Pepper veramente angosciosa, dice era veramente angosciosa, l'ho assaggiata un pomeriggio nei lontani anni 80 e dopo il primo sorso l'ho versata nel Po. Poi dicono l'inquinamento. E un altro ascoltatore, Andrea, dice: ho passato un mese negli Stati Uniti senza sapere dell'esistenza del Dr. Pepper, questo ascoltatore ironico, e adesso come faccio? Luigi la definisce una cola alla ciliegia e l'aggettivazione in questo caso è abominevole. E invece Claudio dice è molto più dolce della coca, aromatizzata alla cannella, secondo lui. 10 anni fa negli Stati Uniti la adoravo, caro Claudio, poi hai cambiato gusti, perché scrivi che l'ho bevuta di recente e mi sembra pessima. Altro ascoltatore che non si firma ma che si limita a definirla una schifezza dice l'ho provata l'anno scorso a Cleveland. Roberto dice Dr. Pepper orripilante. Vabbè, io chiuderei qua, come dire, i nostri rapporti con la Dr. Pepper sono definitivamente compromessi, mi dispiace, non non credevo tanto. Del resto il guaio l'hanno fatto loro proponendo lattine gratis a se i Guns N' Roses, il disco di Guns N' Roses fosse uscito entro il 2008, cosa che è successo. Però poi precisa un ascoltatore, eccola qua il suo messaggio: questi non sono i veri Guns N' Roses, i veri Guns N' Roses sono spariti tanti anni fa, non si possono più definire tali. Da formazione di Use Your Illusion rimane solo il cantante, che ha cambiato qualcosa come 15 elementi, e la cosa più divertente è che erano spesso loro ad andarsene perché vedevano che non si arrivava mai a nulla. I veri Guns N' Roses sono morti molti anni fa, ci scrive Chris. Siamo impressionati da questo sondaggio. Del resto, vuoi mettere le mani nella cultura popolare? Il risultato è questo. Le reazioni sono appassionate. Io andrei, per esempio, a questo punto anche a andare a guardare un po' oltre. Per esempio, presso i pensieri di un nostro amico, di un amico di Jefferson Mink, che si chiama Giuliano Noci, fa il docente di marketing al Politecnico di Milano, è in questo momento a Shanghai, ha parecchi argomenti interessanti di cui ci parlerà, ma prima io lo sottoporrei inevitabilmente a questo sondaggio spontaneo. Giuliano, buongiorno, buonasera per te anzi. Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Insomma, prima di collegarci con te, parlando, dando varie notizie di vario ordine e grado, non sto neanche a ripercorrere, ci siamo imbattuti in una lattina rossa che si trova nei supermercati americani, che non è la più famosa, più tradizionale bevanda gassata degli americani, ma che è una specie di sua parente stretta, nonché forse anche un po' imitazione, comunque somigliante, che si chiama Dr. Pepper. E poi parlando abbiamo detto ai nostri ascoltatori: l'avete mai bevuta per caso? E apriti cielo, non voglio neanche stare a ripercorrere che cosa è entrato nella nostra messaggistica. Giuliano, hai mai bevuto la Dr. Pepper? No, non l'ho mai bevuta, francamente, devo dire. Va bene, quindi ti dichiari neutrale in questo sondaggio su questa ennesima bevanda. Purtroppo sì, devo dire che la conosco, so che è di fatto la bevanda alternativa alla Coca-Cola, ma non l'ho mai bevuta, francamente. Va bene, lasciamo. Sono forse demodé, caro Stefano? No, credo che anzi sia demodé beberla, da quello che dicono i nostri ascoltatori. Noi siamo dalla parte giusta della ferrovia, della stazionata. Dunque, passiamo agli argomenti seri. Volevamo un attimo ricollegarci all'ultima chiacchierata abbiamo fatto con Stefano Silvestri, un analista di realtà internazionali, scenari internazionali. Abbiamo parlato anche di India. Vorrei sapere allora, a Shanghai in questo momento, in relazione naturalmente ai recentissimi attentati di Mumbai, se come, soprattutto quanto e da che punto di vista la notizia è rimbalzata in Cina e che lettura se ne dà. La notizia è rimbalzata in Cina in modo molto significativo. Tutti i quotidiani danno evidenza delle problematiche indiane, in prima pagina anche oggi il Shanghai Daily ne dava grande enfasi e se ne parla in termini di forte preoccupazione per quelle che sono le relazioni tra India e Pakistan, la Cina che vuole avere chiaramente un sott'occhio, sotto controllo quelli che sono gli equilibri della parte orientale del pianeta e quindi in questo senso dedica grande attenzione al tema. Ecco, se tu dovessi in poche parole riassumere il senso, diciamo l'aria che tira nei rapporti tra due grandi colossi come India e Cina al presente, negli ultimi tempi o nelle immediate prospettive, tanto più vista l'aggressività di mercato che entrambe le nazioni hanno dimostrato negli ultimi tempi, di che cosa parleresti? Di un buon vicinato guardingo, forse anche di qualcosa di più? Come potrebbe essere descritto? Ma in realtà diciamo si guardano con occhi attenti e probabilmente si temano. Diciamo che dal vicinato, in fondo i vicini poi sempre si odiano, no? Certo, sempre. In realtà certo. È qualcosa di più che un buon vicinato. In questo senso gli sforzi di Manmohan Singh e Wen Jiabao sono quelli di intensificare le relazioni commerciali. Gli investimenti fatti in Cina, la Cina in India stanno aumentando e anche il governo cinese ha chiesto agli indiani di investire sempre più in Cina. Quindi direi attenzione, un minimo di preoccupazione, ma si comprende quanto sia importante avviare legami più strutturati. Oh Giuliano, la tua presenza a Shanghai è motivata anche dall'argomento principe, quello con la A maiuscola in città e per altri frangenti anche in Italia, a Milano in particolare, ovvero l'Expo. Puoi anticiparci qualcosa sulla conferenza che farai a Shanghai e magari sulle parti di quella conferenza che in un certo senso arrivano a toccarci direttamente in quanto realtà italiana? Ma diciamo che io sono qui perché sabato al governo di Shanghai andrò ad illustrare quelle che sono le opportunità rappresentate all'Expo per il rilancio dell'immagine di Shanghai. Andrò a dire sostanzialmente quanto è importante, al di là dell'evento, che Shanghai si costruisca un'immagine da un punto di vista urbanistico sostenibile, da un punto di vista ambientale di ecocompatibilità, e andrò ad evidenziare come non si deve incorrere nell'errore che ha fatto Saragozza recentemente, che è quello di isolare l'evento al di fuori della vita della città. Andremo a parlare in questo senso di come dovrà la città interagire con gli ospiti stranieri e di come la città dovrà amministrare tutti quelli che sono i flussi di traffico per fare in modo che effettivamente Shanghai rappresenti dal 2010 in avanti un esempio di città sostenibile. Perché esiste. In Italia avremo domani tra l'altro anche la fortuna di avere il ministro Urso qui presente, che andrà ad illustrare, a svelare quelli che sono i primi segreti del padiglione italiano. Domani verrà annunciato il fornitore che il cinese costruirà il padiglione italiano. Spero che domani, come nei prossimi giorni, vi sia un'occasione per stringere relazioni ancora più strette, perché anche noi dovremo imparare da Shanghai per avvicinarci in modo organico ed efficace all'Expo 2015 di Milano. Ecco Giuliano, perché per concludere, esiste in realtà un dato, come dire, effimero di queste esposizioni, e vorrei sapere da te anche se in prospettiva potrebbe esistere a Milano, ovvero di grandi iniziative, probabilmente anche grandi capitali investiti in qualche cosa che poi nasce, vive e finisce con l'Expo stessa. È così ed è una strada che continua a essere percorsa, a tuo parere? Sì, purtroppo degli investimenti effimeri vengono fatti, verranno fatti a Shanghai, auspichiamo che non vengano fatti a Milano, ma non ne possiamo essere sicuri. Ingenti capitali che vengono spesi probabilmente per molto poco sono, ad esempio, per il padiglione cinese, che costerà una cifra impressionante, ma che sicuramente, al di là di un minimo di simbologia, non rappresenterà certamente un qualcosa che lascerà il segno nella società civile e economica cinese. Direi che i cinesi farebbero veramente meglio a investire soldi per fare in modo che la dichiarazione di Shanghai, che verrà a valle dell'Expo, sia una dichiarazione che detti linee guida chiare per le città sostenibili del futuro, nell'est, nell'Oriente, ma anche nel mondo occidentale. Allora, grazie a Giuliano Noce, naturalmente auguri, un in bocca al lupo per la sua conferenza sul valore dell'Expo per la città, per l'immagine di Shanghai nel mondo. In ogni caso poi è interessante che un nostro docente, insomma, vada a illustrare, a spiegare, a parlare di queste cose agli organizzatori di una manifestazione di un simile peso, che del resto rimbalzerà poi presto dalle nostre parti. Poi qui continuate a scrivere, preferisco la ginger ale, vogliamo parlare, qui sì, c'è anche un detour, una deviazione. C'è un ascoltatore che propone di parlare della disgustosa americanata chiamata root beer, la birra analcolica. Questo è Jefferson Ming, io sono Stefano Pistolini, ex bevitore di Dr. Pepper. In redazione c'è Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Pietro Lacorte. L'indirizzo per scriverci è jeffersonming@radio24.it. La replica di questa puntata è in onda stasera alle 9, invece potete riascoltarci se volete domani alle 4, come sempre qui da Radio 24.